la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, buon venerdì 16 di maggio da Oscar Giannino, sono le 16:35:37 secondi, la puntata è in particolare dedicata agli artigiani, ma non solo a loro, edifisco sugli artigiani. Perché? Perché noi del fisco crediamo sempre di sapere tutto dell'eccesso, le sue pretese, e però poi scopriamo che non sappiamo mai abbastanza. E allora oggi parliamo di queste 192 pagine, è abbastanza corposo, messe giù con l'osservatorio fiscale di una delle associazioni dell'artigianato, la CNA, che io garantisco a tutti vale la pena di leggere. Lo trovate sul sito www.cna.it per avere una misura in ogni capoluogo italiano, quindi in ognuno dei 114 capoluoghi italiani, di quale sia la somma della pretesa fiscale nazionale, poi quella regionale, poi quella comunale, per un'impresa artigiana tipo, su cui è stata fatta la simulazione nel nostro paese, un'impresa artigiana con un reddito d'impresa intorno ai 50.000 euro l'anno, con 5 dipendenti, quindi 430.000 euro di fatturato, e la lettura di come innanzitutto si è elevata, e va bene, ma come si è diversificata nel territorio italiano la pretesa elevata del fisco, sommando le tre componenti, i tre pilastri, quello nazionale, regionale e comunale, lascia davvero, anche per chi crede di saperle queste cose, senza parole. E soprattutto c'è anche documentata poi il procedere nel tempo dal 2011, 2012, 2013 e 2014, l'aumento di questa pretesa capoluogo per capoluogo. Io, prima di presentarvi l'ospite a cui poi lascio la parola per interrogarci su questi dati, per spiegarli meglio e anche poi per arrivare a delle proposte, per così dire, vi butto solo lì qualche cifra, perché se andiamo a vedere i capoluoghi in cui la pretesa fiscale è più bassa, noi abbiamo che di quei 50.000 euro più o meno di reddito lordo su cui si fa questa campionatura di ipotesi della pressione fiscale in tutti i capoluoghi, noi abbiamo alcuni capoluoghi come Cuneo in Piemonte, come Carbone in Sardegna, come Sondrio nella Lombardia, nei quali la pressione fiscale totale si ferma al 56 e qualche cosa per cento. Cioè, per un'impresa artigiana in queste città, Cuneo, Sondrio, Carbonia, Belluno, poco più, si inizia in questo 2014 a lavorare per sé e non per lo Stato dal 25 di luglio, più o meno. Se invece nei 116 capoluoghi ci spingiamo ai capoluoghi nei quali la pressione fiscale sommata è più elevata, e cioè a Roma, Reggio Calabria, Bologna e Firenze, la città di Renzi, allora lì la cosa incredibile è che c'è un aumento rispetto a quel 56% di richiesta fiscale sul reddito lordo dell'impresa artigiana di quasi 18 punti pieni. Cioè noi passiamo dal 56% dei capoluoghi a minor pressione fiscale a un 74,3%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che di quei 50.000 euro lordi, mentre in città come Cuneo, Carbonia, Sondrio ne restano 22.000 e qualche cosa, a Roma, Bologna, Reggio Calabria, Firenze, Napoli, poco sotto viene Napoli, ne restano 12.000, perché tutto il resto va allo Stato nelle sue tre diverse componenti. Tant'è che in queste città in cui la pressione fiscale, la somma della pressione fiscale è più elevata, gli artigiani cominciano a lavorare per sé e non per lo Stato, non il 25 luglio come a Cuneo e Carbonia, ma addirittura il 29 di settembre. Cioè, capite, gli restano solo 3 mesi di lavoro per sé, tutto il resto se lo prende la somma del comune, della regione e dello Stato. Allora, la cosa che colpisce è che in questi anni l'aumento della pressione è documentata, è fortissima. Per esempio, a Roma nel 2011 la somma delle tre diverse componenti sul reddito lordo era 65,7% e siamo passati al 74,4%, quindi capite che siamo in un ordine di grandezza del 9% proprio in questi anni di crisi. Allora, se avete voglia telefonateci dalle diverse città e vi diciamo in ognuno che cosa vi aspetta quest'anno e di quanto è aumentata negli ultimi anni. Però, per capire meglio la realtà raccontata in queste cifre, abbiamo con noi il presidente nazionale di CNA, Daniele Vaccarino, che ringrazio per essere qui con noi oggi pomeriggio. Grazie presidente. Buongiorno, grazie a lei, buongiorno agli ascoltatori. Posso chiedere una cosa, ma il lavoro, insomma, siccome c'è un mucchio di lavoro sopra, voi come lo avete fatto in realtà? Ma guardi, è stato in effetti un lavoro enorme, condensato in quelle 180 pagine di cui lei ha parlato. L'idea è nata dalla volontà di prendere un'impresa reale, vera, esistente, un'impresa con circa 5 dipendenti, con 400.000 euro di giro d'affare all'incirca, con un capannone di 350 metri e con un'area espositiva, uffici, insomma negozio di 175 metri quadri. Quindi un'impresa che si avvicina a quella che è la media delle imprese italiane, già un pochino più strutturata, quindi 4 operai, un impiegato, insomma una bella impresina. A dir la verità si tratta di un'impresa che lavora nel settore del legno, quindi fa mobile d'arredamento, quindi un'impresa vera, c'è. Di questa impresa abbiamo controllato che corrispondesse anche dal punto fiscale agli studi di settore, quindi avesse un risultato finale congruo e coerente come stabiliscono le norme fiscali per il nostro settore, e poi abbiamo provato ad inserirle nelle vari capoluoghi di province, ex province, insomma, proprio in una via, cioè ogni laboratorio, ogni officina è ubicata in una via non centrale, la cosiddetta semiperiferia. E lì abbiamo calcolato per ogni capoluogo quanto sarebbe venuto il prelievo fiscale, con le sorprese che lei ha saggiamente già ricordato. No, perché in effetti, cioè, sono sorprese nell'ambito di 18 punti percentuali, cioè è una... Io sono per un ordinamento fiscale che è fatto anche con la concorrenza locale, ma qui innanzitutto la concorrenza è solo al rialzo e gli aumenti sono incredibili. Tra l'altro l'ascoltatore che per esempio mi chiede Modena, secondo le tabelle che ho qui, è più o meno a metà della graduatoria di 116, cioè al 52esimo posto. Nel 2014 questa impresa artigiana pagherà il 63,1% del suo reddito lordo, ne pagava nel 2011 il 58,3%, e quindi c'è un certo aumento anche lì, certo non parossistico come... Non marcato, ma c'è anche lì. Ora, e c'è una spiegazione, ovviamente, sì. Siamo andati alla ricerca delle spiegazioni. La spiegazione principale sta nel come i singoli comuni applicano i valori catastali, ovvero sia se hanno aggiornato il catasto o meno. E avendo qui una seconda grande sorpresa, che alcuni comuni hanno dei valori catastali che oggi sono molto superiori al valore reale del mercato. E quindi quando si dice che poi bisogna rimettere mano al catasto perché i valori sono molto sottodimensionati al mercato, anche quella è una generalizzazione a guardare la realtà infondata, bisogna vedere caso per caso. È fondatissima, perché ci troviamo di fronte a realtà come Cuneo, laddove i valori catastali sono bassissimi, quindi non è stato aggiornato il catasto da questo punto di vista, valori come Bologna, Roma, Reggio Calabria, dove i valori catastali sono alti, assolutamente superiori all'attuale valore di mercato, tra l'altro, quindi insomma con difficoltà anche oggettive. Per fare un esempio che credo sia determinante, insomma un laboratorio di 350 metri a Reggio Calabria è valutato 664.000 euro, 292, a Cuneo 50.000 euro, 486. Questi sono i due. Che, devo dire, è anche questa una forbice totalmente incredibile, perché stiamo parlando veramente in maniera abissale. Assolutamente. Allora, il valore medio sarebbe 261.008 per la precisione. Ho capito, però si passa da 50.000 a 660.000, chiunque è in ascolto, capito? Io lo dico anche perché poi, siccome ovviamente alcuni messaggi arrivano, artigiani, autonomi, lo so, però queste trasmissioni sono fatte anche per spiegare, visto che lo Stato ci divide tra lavoratori dipendenti e autonomi, che in realtà poi il terno all'otto che lo Stato riserva agli autonomi, come vedete, è veramente pazzesco. Rendetevi conto che iniziare a lavorare per sé dal 1 di ottobre, dal 29 di settembre, apparentemente è una follia, sembrerebbe che nessuno ci crede, no? Che poi questo è quello che avviene in Italia, però in molte parti d'Italia, numeri alla mano, è esattamente questa la mala situazione. Poi questo anche per rispondere alla domanda, quando abbiamo fatto la trasmissione del 1 maggio dedicata agli autonomi, molti non hanno creduto a quella cifra, 400.000 autonomi in meno in Italia nella crisi, però procedendo così capite che queste sono le ragioni per cui ci sono i 400.000 autonomi in meno. Adesso abbiamo i 60 secondi di informazione sulle strade e poi torniamo con il presidente di CNA Daniele Vaccarino. Strada. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta a parlare di pressione fiscale capoluogo per capoluogo su un'impresa artigiana media su cui la CNA meritoriamente, lo trovate sul sito trovate sia il rapporto generale di 190 pagine, sia alcune tabelle in maniera che sono più sintetiche, sia di tutti i capoluoghi, aumento della pressione fiscale anno per anno dal 2011 al 2014, anno in corso, sia l'indicazione del tax day, cioè il giorno in cui si comincia a lavorare per noi stessi. Quindi andate sul sito della CNA, c'è un ascoltatore che mi chiede: Genova come sta? Genova sta male, perché nella graduatoria delle 116 capoluoghi è al decimo posto, anzi al nono posto come pressione fiscale più elevata, quindi in questo 2014 quell'impresa artigiana media pagherà il 69,3% dei suoi 50.000 euro di reddito lordo, quindi gli resterà praticamente il 30% esclusivamente. E la cosa da sottolineare è che è anche uno dei capoluoghi, Genova, con il più considerevole aumento dal 2011 a oggi, perché nel 2011 quell'impresa avrebbe pagato a Genova il 58,5% e adesso paga il 69,3% nei tre anni, quindi capite che siamo in presenza di aumenti patologici, per così dire. Sentiamo un ascoltatore, è sempre con noi il presidente Daniele Vaccarino, e torneremo poi a chiedergli adesso subito quali proposte anche per affrontare questa ira di Dio di richieste, ma è un ascoltatore, Gottfried, che ci chiama da Como. Prego. Sì, buonasera. Buonasera. Danilo, sì. Io volevo aggiungere questo argomento, non sono un artigiano ma comunque piccola impresa, quindi intorno ai 2 milioni di fatturato, pochi dipendenti. Mi è capitato l'anno scorso di dover pagare anche 120% dell'utile in tasse, perché con le perversioni del sistema fiscale italiano, tassando interessi, tassando salari e stipendi, si può arrivare anche a questo. Eh sì, dipende anche un po' dalla composizione finanziaria debitoria, l'esposizione sul totale dei propri attivi, quanto sono garantiti e coperti oppure no. Comunque si può arrivare a questo. Ricordo che Como, diciamo, sta messa abbastanza bene, come 63esima in graduatoria, quest'anno con un'impresa artigiana di cui stiamo parlando pagherà il 62,2%, era il 57,7% nel 2011. Presidente Vaccarino, tra le proposte che voi avanzate ce n'è una che a me piace molto, a dire la verità, sono tutte imposta per imposta dettagliate, però ce n'è una che secondo me arriva anche a chi poi non è molto esperto delle diverse imposte e come funziona nel nostro paese, e la sintesi della vostra proposta è: paghi di meno chi paga di più. La vogliamo spiegare? È sempre il solito concetto, insomma. Noi abbiamo una tassazione che in questi anni si è particolarmente elevata sugli immobili complessivamente. Per quanto riguarda le aziende, questa tassazione sugli immobili è ulteriormente aggravata da una tassa sui rifiuti che è altissima perché è calcolata sui metri quadri. Ed è, questa cosa è una assurdità totale, perché quello, quello dovrebbe essere proporzionata al servizio, quindi a che quanto uno ne produce eccetera eccetera, invece così diventa un puro coefficiente patrimoniale. Sì, anche perché la stragrande maggioranza delle imprese produce dei rifiuti che normalmente sono classificati speciali, certo, e quindi vanno smaltiti in altro modo, tra l'altro con un costo che in quel senso lì noi diciamo è anche corretto, certo, perché si producono dei rifiuti, i rifiuti bisogna smaltirli nella maniera correttamente, giusta, non andare a fare ulteriori danni, già drammatici danni che abbiamo in Italia. Quindi la percentuale invece dei rifiuti classici, diciamo rifiuto indifferenziato, è minima all'interno di un'azienda. Possono essere i bicchieri del caffè, poco se qualcuno ha una piccola mensa, ma robe di pochissimo conto. Quindi la sommatoria dell'IMU, che ha aggravato notevolmente, e della tassa dei rifiuti, aggiunta alla terza, che è l'IRAP, che complessivamente porta a una tassazione che diventa indipendentemente dal reddito. Certo. Questo è il concetto, che in una situazione di crisi come questi ultimi sei anni diventa drammatica per l'impresa, perché un'impresa potrebbe essere a reddito zero e paga una fortissima tassazione, ripeto, sulla parte che è sganciata dal reddito. Certo. Allora, noi diciamo che chiediamo con forza di intervenire su questi tre aspetti fondamentali. Il primo, l'IMU. Noi non siamo per una non tassazione degli immobili, ci rendiamo perfettamente conto che la tassazione sugli immobili c'è in tutto il mondo. Esatto, è una componente che abbiamo parlato tante volte. È una componente che c'è, fa parte di un patrimonio. Chiediamo che in un periodo di crisi questa venga o ridotta del 50% per le imprese, o invece la cosa che io riterrei più corretta, che possa essere scaricata dalle tasse, cioè è già una tassa che paghi e quindi viene scaricata. Se questo avvenisse, già solo questa operazione riporterebbe quegli stessi valori che abbiamo detto prima indietro di 5 anni, certo, e quindi ad un, come dire, ad un coefficiente che, pur continuando ad essere estremamente alto, è insomma un pochino più accettabile. Non solo, ma livellerebbe abbastanza il livello nelle varie città italiane, perché gli adeguamenti catastali sono avvenuti in questi ultimi anni. Roma ha avuto un salto enorme proprio in questi ultimi 4 anni, certo, per esempio. E questo criterio, quello premiale, del rivedere la tassazione delle imprese personali e degli autonomi, riducendo l'aliquota all'aumentare del reddito dichiarato, quello che io più ho detto un po', chi più dichiara meno paga. Questa è una formula incentivante che ci parrebbe che soprattutto anche in questo periodo di crisi, perché le nostre imprese non hanno ancora visto la fine del la luce in fondo al tunnel, stiamo vedendo piccole candele, alcuni settori, altri no. Allora, una formula premiale che, superati gli studi di settore, quindi laddove uno ha raggiunto quello che secondo lo Stato è il suo livello, sì, di reddito, se va oltre, quindi vuol dire che crescendo, ci sia una diminuzione delle liquide fiscali per quella parte. Per quella parte eccedentaria, che è anche un incentivo poi a dichiarare più fedelmente, per così dire. Secondo me la forza di una proposta di questo tipo è quella proprio di sbussare la classica accusa al lavoro autonomo. Questa, secondo me, per esempio, oltre a quelle tecniche sull'IMU, IRAP, eccetera, eccetera, dovrebbe essere una modalità da mettere al centro della riflessione pubblica. Sentiamo molto rapidamente Cosimo da Ferrara. Prego, Cosimo. Sì, buonasera a voi. No, io sono amministro un'azienda artigiana, sì, anche sull'ordine di fallimento, visto che un truffatore dopo aver truffato 500.000 euro, però ha deciso di non pagare. Va bene. Quindi mi toccherà pagare l'IRAP, mi toccherà pagare tutte le varie comunque, o perlomeno lo Stato. E questo mi dispiace molto. Vabbè, grazie. La cosa che volevo proporre era questa, è una proposta molto rapidissimo, ingenua. Rapidissimo. Sì, una proposta molto ingenua. Ci sono le partite IVA, c'è un nuovo. Eccoci qui.